Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Eccoci qua, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta in questo sabato assolato di maggio, in diretta dagli studi di Milano dei Conti della Belva. In studio qui con me il grandissimo Mario. Buongiorno a tutti. E abbiamo qualcosa che non funziona. Adesso arriva, adesso sei acceso. Esattamente. Ed è collegato con noi. Non vi dico da dove, in missione segreta, lo hanno appena paracadutato. Sorriso sinistro. Una volta porto via il pallone, caro Oscar. Buongiorno a tutti, caro Alberto Carnevale Maffè. Comunque è lì ospite di una federazione che sta a Coverciano. Non so quale federazione sportiva, ma naturalmente l'avete capito al volo. Le bocce, il futuro dei pensionati italiani. Ma essendo lui il renziano di noi, è giusto, mi pare giusto che voglia portare via il pallone, ecco, diciamo. Esattamente. Mentre più tardi ci raggiungerà anche il nostro Renato Cifarelli, che è impegnato come tutti sabato mattina in questo momento a fare un bagno nel suo deposito aurifero, come tutti i paperoni che Dio li abbia in gloria. Allora, di che cosa parliamo oggi, cari ascoltatori? Per consentirvi di decidere se telefonarci all'800 24 00 24, dedichiamo, dopo l'inizio sui dati di questa settimana e qualche riflessioncina in effetti sulle parole di Mario Draghi, sulla ripresa che è partita e noi restiamo un po' indietro, per così dire, e su quello che accade per MPS, le due banche venete, faremo qualche considerazione su questo, come sempre nella rubrica con Mario Similero a che punto siamo. Dopodiché è uscito il bando da parte dei tre commissari straordinari di Alitalia, e approfittiamo di questa occasione per riparlare di Alitalia e chiedervi: siete proprio convinti? Sì, vi ha convinto questa maniera con cui Renzi ha reagito aggiustato le intenzioni iniziali del governo? Vi convincono questi tre commissari che annunciano rotte nuove, il nuovo contratto per i dipendenti, l'assunzione di nuovi dirigenti, insomma non proprio ciò che all'inizio veniva presentato come procedure rapide per la cessione? Allora tenteremo di capire di più con i nostri ospiti. Io in ogni caso vi dico che abbiamo già aggiunto a quanto ci è costato complessivamente, sia sotto la guida dello Stato sia sotto il fallimento dei privati dell'Italia fino a questo momento, abbiamo aggiunto alla struttura commissariale di Alitalia esattamente, caro Alberto, 6 volte tanto quanto i dati ufficiali usciti questa settimana ci hanno detto che ha dato a startup nei settori knowledge intense in tutto il 2016 tutta la struttura dei venture capital, dei fondi venture capital italiani. Nel 2016 sono stati solo 104 milioni, il che la dicono lunga su che paese arretrato siamo, veramente ridicolo. E ad Alitalia abbiamo già dato 6 volte tanto, cari ascoltatori. Non so se è chiaro. È il simbolo di un paese che pensa di volare alto. Sì, pensa di volare. Vogliamo volare alto. Come no? No, perché dopo le start-up abbiamo inaugurato le start-down, diciamo. Esatto. E dopodiché a questo aggiungiamo invece una riflessione di mezz'ora che trae spunto dal rapporto annuale 2017 dell'Istat, che è un'altra delle novità uscite questa settimana. Tra i tantissimi dati, aspetti importanti del report, un'analisi di riclassificazione dei ceti sociali nel nostro paese. In particolare, dopo aver confermato il giudizio che la borghesia e i ceti medi, insomma, vengono destrutturati dalla crisi, ormai nove nuovi gruppi attraverso i quali si riclassifica la società italiana. Vediamo se è fondato questo criterio di lettura della società italiana. A me non pare troppo, ma comunque abbiamo un ospite, tentiamo di giudicare. Voi intanto dateci la vostra impressione: voi siete davvero dell'idea che non esistono più i ceti medi, che è tutto sconvolto, eccetera eccetera, oppure pensate che in questo ci sia un eccesso di accanimento? Perché poi, se andiamo a vedere la diseguaglianza dei redditi italiani al lordo dell'intervento statale, in realtà resta tra i più bassi nei paesi avanzati. Poi il problema è che, al netto l'intervento statale, cioè dopo che è intervenuto lo Stato, purtroppo sale, ma perché abbiamo un welfare che è inefficiente. Questo è il punto vero. Allora, Oltre a questo, rapide segnalazioni. Mario, cosa hai visto in settimana? Ma mi ha colpito la confessione di Marine Le Pen, che praticamente ha dichiarato: sono ben consapevole che la questione dell'euro ha inquietato molto i francesi e dovremo tenerne conto. Il che non è male per una che ha scritto la quasi totalità del suo programma elettorale delle presidenziali sull'euro. Poi si è accorta strada facendo che circa i tre quarti dei francesi pare non vogliano uscire dall'euro e quindi ora qualcosa dovrà inventarsi. Nel frattempo, parlando di lepenisti alle vongole e tuttavia pagati dai contribuenti italiani per giunta in euro e non in lire, segnaliamo che all'Europarlamento siede un giovanotto italiano che ha notato che i ministri della difesa francese, Sylvie Goulard, e anche quello del nuovo ministro dell'economia, parlano un tedesco fluente. E questa dovrebbe essere la pistola fumante, diciamo, del complottone, o il pistola fumante a seconda della situazione. Vedremo con Udo alle 11:30 cosa ne pensa. Carlo Alberto invece. Ah, vi devo parlare anche di Europa, però di Facebook, perché l'Europa ha dato un multone da brivido, tipo 110 milioni, perché Facebook ha sbagliato a mettere una crocetta sul questionario. Ora, si sono scatenati in Italia i commentatori dicendo: ecco, finalmente colpiamo le multinazionali cattive del web. Ora, come sai, io sono simpatizzante, anche se critico, nei confronti degli amici che fanno uno straordinario servizio sociale all'umanità, mettendoci a disposizione questi piattaforme, ma devo segnalare che stavolta ha fatto una grandissima cavolata. Mi aspetto di vedere scorrere sangue a Mountain View, perché qualcuno veramente ha scritto una stupidaggine. Quando la Commissione Europea ha chiesto per autorizzare la fusione fra WhatsApp e Facebook, quindi stiamo parlando di 3 anni fa, se avevano intenzione di fare il matching, cioè la fusione dei profili, gli ha risposto candidamente: ma no, non la facciamo. Quando in realtà, scusate, ma era di gli obiettivi fondamentali di quella fusione, quindi giustamente dal mio punto di vista, e ha fatto benissimo la Commissione Europea a dire: scusate, ma avete risposto in maniera del tutto scorretta e fuorviante. 110 milioni per una crocettina messa male, che la stessa Commissione ha ammesso non avere impatto sulle decisioni della fusione, secondo me però sono quello che si chiama una punizione esemplare, cioè sono una specie di segnale di ballon d'essai per dire: attenti che qua non sgarrate, perché altrimenti vi pensiamo. Quindi è il segnale di una guerra strisciante, secondo me, perché non si, veramente non c'era il fondamento per una multa così grave, ma è il segnale che l'Unione Europea vuole contare, vuole dire: attenti che anche sui dettagli bastoniamo. Questo fa molto ben sperare per le banche italiane, caro Oscar. E di questo ne parleremo tra pochissimo. Consentimi di aggiungere qualche osservazione rapidissima della settimana. Per esempio, siamo veramente un paese strano, dove i giornalisti che difendono l'idea delle vaccinazioni obbligatorie come me ricevono tonnellate di lettere di insulti, ma di insulti la cui, devo dire, contorsione mentale mi fa riflettere molto. Io non mi spavento per nessun tipo di insulti, sono abituato al dibattito pubblico italiano, ma su questo tema dei vaccini e delle coperture, l'insania della contorsione che esce dalla penna o dal dito digitando a molti mi fa veramente pensare sul retroterra culturale di tutta questa cosa qua. Cioè, la convinzione di vivere davvero ormai in un film di Dan Brown, di complotti, tutto Big Pharma, cioè la gente che mi scrive: lei non ha idea perché non ha figli, invece ce l'ho naturalmente, vabbè, lei non ha idea perché non ha figli, le dosi dell'esavalente sono costruite apposta per indurre alla malattia permanente, sono fin dall'inizio scelte da Big Pharma per questo, e ne ricevo tante di lettere così. E allora io, riflettiamoci tutti, perché veramente è una cosa che mi ha molto colpito in questa settimana, come mi ha molto colpito per esempio piccole vicende che rimangono sui giornali locali. Ma per esempio in Emilia Romagna, dopo scandali di gente che timbrava falso, perché non avviene solo nel sud, non ci sono solo sud di furbetti del cartellino, la regione si decide a mettere un regolamento del personale con più controlli sui tempi di temperatura, i badge e i caffè. Ovviamente i sindacati insorgono. E però anche i 5 Stelle votano contro. Perché i 5 Stelle votano contro? Scusate, io veramente ve lo chiedo, ma perché? Cioè, state andando avanti da sempre, dicendo che la battaglia è la trasparenza, l'efficienza, la pubblica amministrazione. E dopo Roma mi viene il sospetto, cari amici dei 5 Stelle, ma non è che pensate ai voti di tutti i dipendenti pubblici, anche voi, come la vecchia DC di un tempo? Ma è possibile mai? Allora, piccoli segni così, però segni così per chi li sa vedere in Italia sono poi il rumore di fondo che viene per così, su cui poi avvengono le grandi vicende, le intercettazioni, Woodcock, Simona Vicoli, il sottosegretario, si dimette in 5 secondi, 2 ore diciamo così, perché è indagata per concorso in corruzione. Benissimo, se questo è il criterio del governo Gentiloni, benissimo. Ma allora perché il ministro Lotti, che è indagato per rivelazione di segreto e favoreggiamento, invece resta? Cioè, qual è la differenza? Io non la so vedere, obiettivamente. Domande così, per chi fa il mio mestiere, domande. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non vi preoccupate. Eccoci qua, caro Mario. Allora, questa settimana da cosa vogliamo partire? Dalla ripartenza europea e l'Italia fuori? Da che cosa? Ma sì, vabbè, diciamo l'Italia resta in coda, il più 0,2% di crescita del PIL nel primo trimestre. Per quanto atteso, non c'è nulla di particolare, però rendiamoci conto, tutto avviene nel mezzo di una ulteriore accelerazione della crescita dell'Eurozona. Ora, tra qualche settimana, a inizio giugno, se ricordo bene, noi avremo la disaggregazione di questo dato di PIL, cioè capiremo quanta parte di quel più 0,2 è stata fatta da consumi, da spesa pubblica, da investimenti, da commercio estero. Però, ripeto, cioè, stiamo continuando, pur in una fase di accelerazione congiunturale dell'Eurozona, a restare inchiodati allo 0,2. Questi sono tutti elementi sui quali noi battiamo da sempre. Poi, che noi battiamo, diciamo, non ne può fregare un accidente a nessuno, però noi continueremo a battere. No, però il problema è che si vede dal dibattito pubblico che non è il tema al centro del paese. No, il tema infatti, centro del paese è il Rosatellum. Quanto presto va a casa Gentiloni e quanto più presto Renzi torna. Ma questa cosa di fondo non c'è proprio, per così dire. Io sono molto colpito anche da questo. Mario Draghi ha usato parole di una... che un banchiere centrale come lui, avendo dovuto affrontare la lunga coda dell'eredità di Trichet di fronte alla crisi di sostenibilità dei debiti sovrani in Europa, non usa con leggerezza, cioè quando dice ce lo siamo messi alle spalle, perché oramai riguarda così tanti settori e tanti paesi, vuol dire che il giudizio francoforte è che oramai si è davvero consolidata la ripresa, ha netto anche la Brexit, dei rischi della Brexit a lungo periodo, di quelli a breve, di questo singolare mercuriale personaggio che è Trump, di quello che può provocare nei mercati a breve, ma ha netto di tutto questo. Ecco, in quella prospettiva lì, dove noi andiamo a 0,2 e gli altri a 0,5 per trimestre in media, sì. Non ci siamo. Cioè, no, infatti il problema è questo, che poi la Commissione europea ci verrà incontro per l'ennesima volta, quindi apparentemente non hanno sì, fissato la correzione per l'obiettivo di medio termine del deficit strutturale per il 2018, eccetera. Ho visto che sui giornali in settimana c'era gente che stappava una bottiglia di quello buono di fronte al fatto che la Commissione europea è rimasta ferma. Allora ci stanno dando credito. Sì. A proposito di miracoli, eccetera, vogliamo fare un attimo una piccola disamina del reddito di cittadinanza? Le oggi coperture. C'è la marcia Perugia-Assisi, durante la quale il Movimento 5 Stelle, diciamo, ribadirà questa che è la mercanzia al momento più pregiata da parte pentastellata sui banchetti della politica. Ma non so, settimana è uscito un riassunto che è stato ben sintetizzato, tra l'altro in una tabella comparsa sul Sole, le coperture. Ci sono alcuni elementi. Intanto, mi pare di capire, rispetto alla versione originaria di un paio d'anni fa, le spese per la difesa sono sparite. Italia le spese per la difesa, perché un paio d'anni fa andava molto di moda tagliare gli F-35. Te lo ricordi, sì. Io resto dell'idea che in questo paese bisognerebbe tagliare gli F-24 più che gli F-35, ma quello è un problema mio. E poi però quel taglio avrebbe finito con l'incidere sulle spese per il personale, quindi sugli stipendi dei poveri militari e anche dei carabinieri, già che ci siamo. Però, allora, abbiamo nella nuova versione delle coperture grilline 2,5 miliardi di ulteriore spending review. Vabbè, qui voglio dire, sono numeri, vediamo se fungono. 2 miliardi da aumento di tassazione di banche e assicurazioni mediante la riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi. Ora, siccome le banche stanno al mondo facendo raccolta, no? E per cui pagando interessi passivi, se riduciamo quello, qual è l'effetto derivante? Una cosa banale, che le banche vanno a ribaltare il maggiore onere sui clienti. Guarda, guarda. Sotto forma di costo dei servizi, commissioni, poi voi sapete quanto sono fantasiose le banche ad applicare nuove commissioni ogni volta, no? Oppure mediante un aumento del tasso sui prestiti. Io devo confessare, ho ricevuto la mail di un gentile signore che è un operatore sociale, quindi una persona che tocca con mano quotidianamente il disagio ampio che c'è in questo paese, che mi ha detto: ma alla fine che sarà mai, diciamo, il fatto che aumentino eventualmente i tassi, le commissioni? Del resto i poveri non usufruiscono dei servizi bancari. Cioè, che poi alla fine ci sia altra gente che viene strangolata e non può fare impresa e chiude, non fa altro che aumentare il numero della platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Ma a parte questo, sto per dire che a me spiace molto che non ci sia in questo paese una cultura economica, perché si percepisce anche da persone in perfetta buona fede che riescono a scrivere cose di questo tipo. Ma un altro aspetto molto sfizioso, a parte la riduzione delle auto blu, perché i grillini sono convinti dalla notte dei tempi che con la riduzione delle auto blu si facciano decine di miliardi. Ebbene, devo deludervi perché non è così. Loro vogliono recuperare 5 miliardi dalle tax expenditure, cioè dalla riduzione delle detrazioni fiscali dei redditi più alti. Allora, redditi più alti non vuol dire nulla. 5 miliardi dai redditi più alti non vuol dire nulla. Che cosa facciamo? Riduciamo la deducibilità degli interessi sui mutui prima casa? Riduciamo, non lo so, i carichi di famiglia, i redditi di lavoro dipendente? Fatecelo sapere. Come sottospecie di questi tagli ci sono 300 milioni da revoca delle detrazioni dei redditi superiori a 90.000 euro. Questa è una sottospecie di quell'altra. Poi ci sono ben 5 miliardi, che non so come li abbiano calcolati, però cioè, diciamo che i numeri sono un dettaglio in questo paese, di divieto di cumulo pensionistico, non cumulabilità dei redditi questo di lavoro furto, autonomo e di lavoro colpito. Dipendente. Questa batte tutti, secondo me. Ma sì, ma voglio dire, questa visto che siamo in un paese che ormai ha il regime contributivo, tagliamo, vietiamo il cumulo tra lavoro autonomo e quindi cosa facciamo? Una cosa molto semplice: derubiamo dei contributi le persone che lavorano. Io posso dirti, Mario, io sono incredulo che, cioè, secondo me non hanno capito cosa hanno scritto. Ho capito, cioè, ma non possiamo fargli da ma tutor, non li voglio eh? Difendere, ma no, al punto tale che se hanno capito sono dei criminali, cioè non ci posso credere che uno mette nero su bianco: hai fatto un pezzo di vita nel lavoratore universale di contributo, ne hai fatto un'altra dipendente, delle due l'una, scegli cosa vuoi, ma io un pezzo me lo rubo, sì, perché c'è scritto questo, esattamente questo, esattamente questo, per cui, cioè, che cosa dobbiamo dire di fronte a queste coperture, queste cosiddette coperture? Allora, a parte la cazzata di continuare a rimbecillire la gente dicendo il governo ha trovato 20 miliardi per le banche ma non trova 20 miliardi, allora, ma quella è polemica. Una è una cifra una tantum, esatto, l'altra è una cifra politica che servirebbe ogni maledetto anno. Qui indicati i soldi, Mario, le coperture. Ehi. Mario, non è una solo una cifra una tantum, quella è una cifra a prestito che va restituita, quindi tecnicamente esatto, non è esatto, nemmeno una spesa. Esatto. Comunque non ci siamo. Precisiamolo perché sennò poi... Caro Alberto, io sono curioso di sapere come prendi... Mi dispiace, cari amici, solo che anche voi avete messo sul sito diktat europeo la richiesta della vigilanza europea, che non è un diktat e non è una sorpresa e non è una novità per chi conosce le regole vigenti. Però sono curioso di sapere, caro Alberto, cosa ci dici del miliardo da privati in più che la vigilanza europea chiede per le due venete. Ripeto, noi non siamo sorpresi, lo abbiamo detto da tempo che non era chiusa la vicenda delle due venete e nemmeno per MPS, sia pure per due ragioni diverse. Tu che dici, Carlo Alberto? Dico che la Commissione europea sta ribadendo la validità delle regole, ovvero che non un centesimo del contributo pubblico può andare a coprire le perdite, quindi vanno coperte tutte le perdite attuali e quelle prevedibili a piano, ovvero quelle necessarie per chiudere le filiali, ristrutturare, fondere le aziende se è il caso, Quindi il piano industriale che viene presentato deve incorporare tutte le perdite, quindi non è un diktat, è un'equazione matematica che rispetta la legge, mi dispiace, ma non è possibile accollare alla collettività i costi di ristrutturazione di un'impresa privata, fosse pure una banca, e quindi mi dispiace, non c'è nessuna novità, è una, come dire, risultato matematico, un piano industriale sulla cui sostenibilità, diciamo, non possiamo pronunciarci perché non l'abbiamo visto, ma non è in sé il fatto che venga richiesto. È successo anche la stessa cosa a Banco Popolare, che prima di ricevere l'ok alla fusione con BPM è stato costretto a 1 miliardo di aumento di capitale, ma la verità è che è stata una, come dire, normalissima, rigorosa imposizione. No, a me colpisce questo atteggiamento da pezzenti intellettuali, ogni volta che ci dobbiamo far ricordare le regole che esistono e preferiamo invece spacciarle nel dibattito italiano come imposizioni discrezionali, perché ci odiano, non ci vogliono bene, perché sono al servizio di una cospirazione uno tedesca. Ecco, questo atteggiamento di cialtronismo intellettuale è la tabe, il veleno del dibattito pubblico, siano i politici a usarla o siano i giornalisti a usarla, siano gli accademici a usarla, perché delle due l'una: o si agisce in malafede, ma non ci posso credere perché è gente che sa perfettamente, oppure il problema è tentare di farlo al servizio di un disegno. Al servizio di un disegno, chi continua a dire queste cose così vuol dire solo spezzare l'euro. Se, come dice Draghi, l'elettorato della maggioranza silenziosa filoeuropea ha aperto gli occhi ad altri paesi europei, siamo rimasti l'unico paese europeo che, grazie al fatto che non cresce, grazie al fatto che abbiamo allocato 50 miliardi di bonus non sulle priorità del paese, continuiamo ad avere, a trascinarci il problema bancario che gli altri nel frattempo in un modo o nell'altro hanno avviato soluzione ammettendo di averlo nel 2011, non come noi fingendo di non averlo, alla fine diventeremo l'unico vero grande paese, caro Alberto, deposito di esplosivo. Questo è esatto, ma questo è il senso della chiamata di Draghi, che ha suonato alla fine della ricreazione, anche se alla sua maniera, in maniera stolta. Ragazzi, il discorso di Israele è l'inizio dell'annuncio di quello che si chiama il tapering, in qualche maniera, sì, cioè del cambiamento radicale di segno della politica monetaria. L'uscita perché quando dalle si dichiara finita una crisi strutturale, ovviamente la politica monetaria deve progressivamente, ma deve cambiare segno. E si può dire, indoviniamo chi ha in mano il cerino. Esatto, ma si può dirlo, Mario, bomba, è anche un bene, perché qui di acquisti sui titoli distorcenti di classe di asset finanziario e tassi negativi che a me non hanno mai convinto, alla fine si muore di politiche non ortodosse che distorcono i mercati finanziari, o no, Mario? Sì, no, ma sono d'accordo. Credo che quello che Draghi ha detto segni effettivamente il pre-inizio del tapering, quindi accadrà, e dopodiché vedremo come si comporterà l'Italia, ecco. Tra l'altro, e come si comporta? Che tornerà a crescere gli oneri del debito pubblico, contrarrà, diremo che la colpa è dei cattivi tedeschi. Esatto, ricomincerà a fare vittimismo, che non è mai stato interrotto, andremo avanti così, insomma. È già aperto, naturalmente vedo le schermaglie di qui al 2019 sul nuovo presidente, perché naturalmente l'idea degli italiani è che c'è stato un olandese, c'è stato un francese, c'è stato un italiano, ma non ci può essere un tedesco, che è una bella regola anche questa. Ma comunque, torniamo tra un minuto e iniziamo a parlare di Alitalia. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Eccoci qua, tornati in diretta con i compagni dei Conti della Belva. Mario, eccoci, buongiorno. E Carlo Alberto, salute da Coverciano. Sono da Coverciano, ma roba da matti, ma roba da matti, Coverciano. Hai preso il patentino? Ma io non voglio fare l'allenatore, voglio fare il centravanti. Ah, il portiere, facevo il portiere. In realtà preferivo fare l'arbitro. guardialine, insomma, qualcuno. Sì, guarda, guarda che dalla regia cioè, è partita un'invocazione all'allenatore dell'Inter subito, è partita. Vabbè, ma lì non ci vuole una granché di studi, cioè veramente i risultati. Guarda, caro dirimpettaio cinese, vediamo l'anno prossimo, eh. Forza Inda, forza in Milan. Esatto. Secondo me Carlo Alberto in realtà aspira a diventare arbitro. Arbitro, ve l'ho detto, ma sono qui con Pierluigi Collina, che ci vediamo spesso dai parrucchieri, e devo dire che parliamo del futuro del calcio. No, beh, io penso da torinista che magari dare un po' più di credibilità alla categoria arbitrale di fronte agli incidenti che agli occhi dell'opinione pubblica e spesso infondatamente li avvicinano come pericolosa categoria sostenitrice e quinta colonna della Juventus non sarebbe male. Però come sai, sto lavorando per l'intelligenza artificiale, esatto, intelligenza artificiale. Prendere inutili acquisti di arbitri da parte di note. Dai, stiamo scherzando, perché sennò ci prendo sul serio. Perché poi ci vorrà il reddito di cittadinanza anche per gli arbitri, certo. Se andiamo avanti così. Gli dobbiamo dare l'extraterritorio. Non quella fiscale, però. Detto tutto questo, ragazzi, allora è uscito il bando dei tre commissari Paleari, Laghi e Gubitosi in Alitalia questa settimana, e le prime notizie che sono uscite dalla loro audizione parlamentare a me hanno fatto grattare un po' la testa, perché ho appreso che dovranno redigere un nuovo contratto per i dipendenti, oltre a un piano complessivo della pianta organica per i dipendenti, a proporre i tagli sempre ai dipendenti. Sono riusciti già a tagliare per 200 milioni pare i costi del carburante. Mi chiedo come, in base a cosa sono riusciti, perché la gestione precedente non si occupava di una versione economicamente efficace della fornitura, o lo hanno imposto all'ENI, come penso io, perché seconda che hai detto, ecco la seconda che ho detto, perfetto, allora va bene, allora è un aiuto. Dopodiché ho appreso che apriranno nuove rotte, loro aprono nuove rotte, stanno facendo l'operativo di realtà in vista di quale sostenibilità finanziaria. Ma questo è il problema, che il piano prevede tre opzioni: vendita in blocco, e io sono d'accordo, vendita cosiddetta spezzatino, e va bene, anche ristrutturazione, e qui scusate non capisco, cioè un'altra volta, infatti, un'altra ristrutturazione a cura di chi, con chi, ma a cura loro, mi pare di capire. Ah, ho capito, no, per carità, io rispetto, sono persone preparate, però è l'opzione politica che non capisco, capisci? Allora, siccome il sospetto viene, naturalmente la stampa ha virato completamente, dai primi giorni eravamo riusciti a portarcela dietro sul fatto che fosse chiaro le perdite accumulate negli anni di gestione pubblica, calcolo aggiornato uscito è finalmente corretto, se no si tornava a dire che l'Italia ci è costata solo 7,4 miliardi, quello è il conto di Mediobanca fino al 2007. Se ci mettiamo i conti poi del fallimento pubblico, della liquidazione, degli aiuti di Stato dati agli ammortizzatori sociali al fallimento della Stato pubblica perché la prendessero i privati, stiamo parlando di altri 10 miliardi erotti dal 2009 a oggi. Ci abbiamo aggiunto 6 volte quello che spendiamo in startup di venture capital ogni anno nel nostro paese, e questa è la novità. Allora, per capirne di più, visto che noi siamo molto scettici, ma invece i giornali hanno ripreso a tifare facendosi corrompere intellettualmente di nuovo da chi dice il fascino della compagnia italiana, non dobbiamo rinunciare, quello che volete, però se hai una flotta incompatibile con la possibilità di stare sul mercato, puoi continuare a dire tutta la vita che vuoi fare il trasporto a lungo raggio dove si fanno i soldi, però non puoi. Pensi che la guerra alle low cost si faccia cacciandole, sbagli, perché le low cost sono quelle che hanno fatto moltiplicare il mercato e soddisfano la stragrande maggioranza del mercato italiano. Tu vuoi darti una struttura low cost? No, perché non puoi, perché anzi, il povero personale bisogna capirlo. Ecco, io non riesco a capire il fondamento di queste che mi sembrano chiacchiere, però abbiamo due esperti e sentiamo cosa pensano loro. Intanto ringraziamoli per essere con noi. Stiamo parlando del professor Mario Sebastiani, che insegna all'Università Tor Vergata, economista. Buongiorno e grazie. Buongiorno. E Andrea Giuricin, lo conoscete, sia economia dei trasporti alla Bicocca di Milano. Giuricin, buongiorno. Buongiorno. Sebastiani, noi saremo troppo critici, ma alla lettura del bando, lei che cosa ha pensato? Beh, mio, il bando è aperto perché, come è stato detto, prevede più soluzioni. È chiaro che queste soluzioni dovranno poi proporle quelli che manifestano interesse. quindi staremo a vedere. Certo, anche io concordo che ho un ritorno di voce, Ma lei sta parlando con l'auricolare per caso? No, no, no, no, no. Sto parlando. No, noi la sentiamo bene comunque, quindi va bene. Dicevo, la soluzione più, come dire, più auspicabile è quella che è stata già detta prima, e cioè dire di una vendita in blocco, che poi non esclude affatto l'uscita da alcuni mercati che sono cronicamente in perdita. Certo, a me stupisce molto soprattutto le reazioni della prima ora dopo il referendum negativo dei dipendenti. Dare la colpa ai dipendenti, sì, che hanno immense responsabilità per il passato, e va bene, ma dare a loro una responsabilità per quello che è successo oggi, onestamente, mi sembra veramente una forzatura. Questo piano era una mezza bufala, era un tampone, una boccata di ossigeno che avrebbe consentito di andare avanti un altro paio d'anni e poi saremmo stati da capo. Ed è anche una sbagliato affermare che l'Alitalia sta affondando per il peso dei debiti della gestione pubblica, perché fra i capitani coraggiosi e poi la nuova Alitalia del 2015 erano state completamente pulite. Ah, no, debiti. No, la compagnia, certo, no, in quel caso io dicevo degli oneri sulla carico del contribuente, no, non a carico della compagnia. Beh, che ci siano degli oneri immensi a carico dei contribuenti nel passato, ma anche adesso. I 600 milioni del prestito, certo, ponte a condizioni di mercato, fa ridere, pari condizioni di mercato, esatto. Chi avrebbe prestato 600 milioni a una compagnia in queste condizioni? L'avrebbe fatto Unicredit? No, anche perché il prestito dato nel 2007 non l'abbiamo mai rivisto indietro, infatti. Il prestito ponte, sì, quello del 2007 non è mai stato rivisto, tornato indietro. Ora, io non è che dispero sul futuro di Alitalia, se ci fosse veramente una discontinuità e non i soliti pannicelli che sono stati. Però, vedi, professore, io la cosa che non capisco è questo. Se andiamo al punto, e noi imbocchiamo da una parte li odiamo e dall'altra li disprezziamo, però terzo speriamo che arrivino quelli di Lufthansa. Mi scusi, vado brutalmente al punto. No. Per immaginare una manifestazione di interesse Lufthansa, la premessa è: ok, basta. Ma che perché Lufthansa? Perché Lufthansa? Che non fa parte della Star Alliance. Ipotizziamo quello che i giornali scrivono, eccetera, eccetera. Allora, ipotizziamo. Se viene Lufthansa, la premessa è: benissimo, però mi potete interessare come compagnia regionale. Perché c'ho nel mio gruppo sia la componente low sia la componente full service, c'ho gli hub, sono organizzato su lungo raggio, eccetera eccetera. Allora, premessa, i giornali che continuano a scrivere questo, perché non dicono questo? Perché naturalmente poi direbbero che bisogna dire no a chi fa un'impostazione di questo tipo. Allora, se le full service non possono che fare un'impostazione di questo tipo, a qualunque gruppo internazionale appartengono e così via, cosa resta? Chi dovrebbe fare l'offerta? Adesso dice i cinesi, io ho tirato fuori le dichiarazioni di D'Alema nel 2007 che dicevano tale quale i cinesi vengono a mettere tramite Alitalia entro il suo mercato europeo. Professor Sebastiano, ma lei ci crede davvero? No, io non ci credo, ecco. E tra l'altro i cinesi avrebbero grossi problemi, appunto, con la normativa comunitaria attuale, appunto, a poter fare voli di lungo raggio e anche all'interno dell'Europa. Detto questo, l'identikit ideale di quello che si potrebbe desiderare come partner, come acquirente anzi, è quello di un soggetto forte dal punto di vista gestionale, dal punto di vista finanziario, che abbia un interesse per i voli di lungo raggio. Cioè, lei ha detto se Ryanair si comprasse l'Italia, l'ha scritto sulla voce. Io dico EasyJet oppure Ryanair, perché io in particolare Ryanair è molto forte sul breve raggio e sul medio raggio, dove l'Alitalia perde una voragine di soldi, perché ha la concorrenza dei vettori carrier, quelli grandi, tradizionali, che si portano il traffico verso i propri hub, e quello di Ryanair o di EasyJet e compagnia cantando. Però Ryanair ha già manifestato intanto alcune attività cosiddette di hubbing, vale a dire fa scalo e poi porta i passeggeri in seconde destinazioni, ed è probabilmente interessata a lungo raggio, ma non direttamente, non operandolo attraverso un'altra compagnia. E questo potrebbe comportare una sintesi degli, allora, interessi. Lei ha lanciato sulla voce punto info questo scenario, mentre tutti si attardavano nel dire cacciamoli, costo quasi, che a me fa molto ridere, sono quelle grazie ai quali il mercato europeo è esploso e quello italiano viene soddisfatto. Lei dice no, e la cosa migliore forse sarebbe davvero capovolgerlo, la vostra versione. Forse dovrebbe essere Ryanair a comprarsi all'Italia. Ripartiamo di qui tra un minuto. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qua tornati con i compagni dei conti della belva. Ancora l'Italia, è uscito un nuovo bando, chissà come mai, ma secondo l'informazione nazionale tutto è decaduto, quello che sembrava preso nella giusta gravità, finalmente il nuovo round della pluridecennale crisi dell'Italia, invece adesso è tornato nella normale amministrazione, i tre commissari fanno audizione come se avessero dietro un capitale finanziario dato che non hanno, per ristrutturare nei piani organizzativi, operativi, logistici, di gestione del personale, di contratti, di apertura di nuove rotte in tre continenti, nuove rotte in tre continenti. Io quando l'ho letto ho detto, ma però questa è singolare realtà del nostro paese. Allora, col professor Mario Sebastiani abbiamo detto, vediamo, certo, forse la cosa da sperare per un interesse, una posizione di interesse dovrebbe essere quella di una low cost, che a quel punto essa sì potrebbe essere sinergica rispetto a una compagnia da utilizzare più per il lungo raggio. Io non credo neanche a questo, sono radicale, perché nel lungo raggio non capisco perché dovrebbe rappresentare la flotta attuale di Alitalia una cosa appealing. Però che dice Andrea Giuricin? Beh Oscar, sono concordo con te, ho letto il bell'articolo sulla voce del professore Sebastiani. Però c'è un problema proprio su Ryanair. Ryanair ha sempre sviluppato, ad esempio, il proprio modello di business per adesso sul corto-medio raggio. È chiaro che sta cercando degli accordi, ad esempio, con Norwegian per fare il lungo raggio, però sarà Norwegian a fare il lungo raggio, ad esempio, dall'Irlanda o da Oslo e via dicendo, e Ryanair collaborerà con Norwegian. Ma Ryanair ha sempre utilizzato un solo modello di aereo, che è il 737 della Boeing 800, e ha comprato altri 200 aerei, che sono i 737 MAX, che di fatto prende di proprietà, compra di proprietà, mentre l'Italia ormai non ha più aerei, non ha più aerei praticamente di proprietà, la flotta di proprietà è veramente ridotta all'osso e sono di solito Airbus. Quindi di fatto, da un punto di vista di flotta, già come idea, è un po' difficile che Ryanair cambi completamente il proprio modello di business, che è basato su un singolo aereo, per andare incontro ad Alitalia. È vero anche che Ryanair però sta iniziando a fare l'hubbing, quello che diceva giustamente il professore Sebastiani, proprio su Roma, ma questa è una grande concorrenza ad Alitalia, perché di fatto aumenta la competizione proprio su Roma. Abbiamo parlato mille volte, quando ADR, la società che gestisce il Fiumicino a Roma, capì che insomma non andava da nessuna parte, però Alitalia aprì alle... facendo il proprio mestiere per aumentare il ricavo della redditività degli investimenti sullo scalo di Fiumicino, aprì alle low cost, questa rappresentò una mazzata fortissima su Alitalia. ADR faceva il suo mestiere, resta poi la singolarità del fatto che poi ADR è pure azionista dell'Italia. Vabbè, ma lasciamo perdere su questo. E quindi però, alla luce di questa premessa che hai fatto, chi è l'ipotetico identikit di chi dovrebbe manifestare interesse a questo bando, secondo te Andrea? Io non credo alla soluzione Forza Inter, come ha detto anche Carlo Alberto, cioè è davvero difficile che i cinesi possano arrivare. Avrebbero esattamente ad oggi un limite uguale a quello che ha incontrato Etihad fino all'altro ieri, cioè il 49% famoso. Che la legislazione sia sicuramente, questa legislazione europea sia assolutamente stupida, è stata la stessa Commissione europea a dirla, l'ex commissario Tim Kallas disse proprio questa cosa. Quindi è chiaro che modificare la legislazione europea è necessario, però non sarà facile, perché ci sono degli interessi da parte di Air France e Lufthansa, e quindi di Germania e Francia, a bloccare questo cambiamento a livello europeo. Quindi soluzioni io ne vedo, continuo a vederne davvero poco. Io sono, come sai, abbastanza pessimista come te, anche perché poi questi 600 milioni di euro dovranno essere ridati indietro fra poco, e quindi voglio vedere dopo come potrà andare avanti per l'inverno. Io mi limito a ricordare ai nostri ascoltatori che era stato annunciato per il 15 di maggio il piano da parte di Matteo Renzi, che aveva utilizzato questa clava per far capire al governo: avete sbagliato strada a parlare di liquidazione finale inizio, avete sbagliato strada a far capire che non c'è una via pubblica, eccetera eccetera, darò il mio piano. Il 15 naturalmente il piano di Renzi non è avvenuto, non è stato detto. In compenso però, Oscar, il ministro Del Rio ha riconosciuto che quel limite al 49% è un ostacolo al mercato, per la prima volta in Europa, bisogna riconoscerlo, si è detto disposto a eliminarlo. Questo, scusami, riapre un po' i giochi. Anch'io sono scettico, ma con Andrea abbiamo scritto sul foglio proprio: caro governo, toglilo quel limite, perché è protezionismo. Però, caro Alberto, sono d'accordo, ma al di là del fatto che lo abbiamo detto per tempo, non ci hanno dato retta, se ne sono reso conto, e ricordo anche che quel 49% serviva in teoria a dire che continuava a essere italiana la faccenda. Stupidaggine di quella norma europea veniva utilizzata per questo. Detto questo, però, caro Alberto, tu ce l'hai una risposta a chi è il partner ipotetico dietro quel bando? Perché la risposta altrimenti è che hanno in mano un piano pubblico, si reinventeranno una CDPata, una Investitalia, una robaccia di quel genere là, cioè non c'è chance, è inutile, con quella flotta dove vai? Allora io mi limito a dire che le domande per uno che fa le procedure concorsuali, non è che mi posso inventare un piano per un futuro, devo ragionare sulla base degli asset che ho, accidentaccio, no? Prego Mario, fai pure. No, io volevo dire, riprendendo quello che tu hai appena detto, mentre Del Rio dichiarava obsoleta la norma del 49%, posso anche essere d'accordo, eccetera, quindi dando grande prova di liberismo, nelle stesse ore alla Camera venivano votate delle mozioni sulla Golden Power, bravo, sui settori strategici che allargava a dismisura le aziende strategiche, quindi meritevoli di tutela. Ora, dicevi, caro Alberto, fate pace col vostro cervello. Però, tornando sull'Italia, è chiaro che senza un'intenzione determinata della Commissione Europea ad aprire progressivamente i cieli, interessi dall'Asia non arriveranno, no, perché, e purtroppo devo però fammelo dire, l'Unione Europea non sta dando una mano a risolvere, no, non sta dando una mano, ma non vedo perché dovrebbe darla. Però ho capito, allora tu dici risolvere questo dovrebbe avere tempi così rapidi da poter intervenire, fare intervenire una manifestazione di interessi. I tempi sono troppo stretti per questo, come i nostri, che adesso andiamo a Giornale Radio e poi torniamo dopo Giornale Radio. Della belva. Ed eccoci tornati qui ai conti della belva in questo sabato di maggio, erroneamente già considerato estivo. Bisognerebbe lavorare di più, invece siete tutti in vacanza. Ma no, lavora Renato. Lavora Renato per tutti noi, va bene. Ciao Alberto, ci sei? No, caro Alberto. C'è. Sentite, ragazzi, noi siamo qui per parlare di questa seconda parte di una cosa che ha colpito almeno a me profondamente e non mi ha persuaso per niente, e adesso la spiego. Però prima facciamo un rapidissimo giro tra noi per vedere che cosa vi ha colpito di più del rapporto annuale 2017 dell'Istat. A me ha colpito in particolare, l'ho scritto per Il Messaggero, un grafico su tutti di queste 270 pagine, ma un grafico su tutti che io trovo la rappresentazione iconografica, in ascissa e in ordinata, più devastante dei problemi italiani. Io vorrei che quella roba fosse proiettata incessantemente, giorno e notte, sui palazzi della Repubblica, cioè sul Quirinale, su Palazzo Chigi, su Montecitorio, perché in quel grafico ho trovato la chiave, la sintesi, la rappresentazione del fatto che siamo perduti se non capiamo perché siamo in quel grafico così e come si fa a non essere più nel quadrante dei perduti. È un grafico che sta nelle pagine tra 41 e 46 del rapporto, quelle in cui si analizza il problema della produttività italiana rispetto a quella comparata, ed è un grafico nel quale c'è in ascissa il PIL pro capite e in ordinata la produttività multifattoriale. E noi finiamo, unico paese di tutti i paesi OCSE, nel quadrante in basso a sinistra, quello dei paesi perduti, dove tra il 2000 e il 2014 c'è un PIL pro capite che sta a meno 6 e rotti e una produttività multifattoriale che sta a meno 5% e rotti. La stragrande maggioranza dei paesi OCSE sta invece concentrata in un'area in cui 2000 e 2014 gli aumenti di PIL pro capite stanno tra più 6 e più 8, gli aumenti di produttività multifattoriale tra più 12 e più 15%. Io ho trovato che quel grafico è un grafico proprio devastante. Io penso che il paese dovrebbe avere quello come unico punto, come prioritario punto di riferimento per l'allocazione di risorse pubbliche, private, incentivi, non incentivi, eccetera, eccetera. Ecco, quello devo dire mi ha colpito. Te, caro Alberto, cosa ti ha colpito di più nel rapporto? Che siamo un paese anziano, ignorante, impaurito. Questo paese ricco. Niente, o ti sposti o non si sente. Mario, a te cosa ti ha colpito? No. Non mi senti, Oscar? No, prova a spostarti. Prova a spostarti? Sì, vediamo se mi senti adesso. Adesso vedi meglio. Allora, hai detto un paese anziano impaurito. Un paese anziano, ignorante e impaurito. Anziano perché non abbiamo spazi di crescita demografica se non tramite l'immigrazione con tutti i problemi conseguenti. Ignorante perché purtroppo studiano in pochi e quelli che studiano non studiano le cose che chiede il mercato. Ricordo che abbiamo la percentuale di laureati più bassa dell'OCSE. È impaurito perché pur avendo 4.100 miliardi di ricchezza finanziaria, la alloca in liquidità e in asset difensivi e non ha la capacità di far ripartire con la benzina che invece ha, perché se abbiamo la benzina non riesce nella direzione del... Questo è... Niente, c'è cioè la linea, guarda, la linea da Coverciano è disturbata, deve arrivare, probabilmente arriva l'aereo dei cinesi che state aspettando con i soldi per il Milan, non lo so, però in questo momento non si sente. Mario, tu? No, anch'io osservo che il paese sta invecchiando in questa maniera, non si, perché abbiamo tassi di natalità terrificanti, questo è frutto di decenni di un welfare sbagliato. E però attenzione, quando si dice possiamo risolvere il problema con l'immigrazione, si dice una fallacia, perché si dice adesso Dio è arrivato il razzista, calmi. Si dice una fallacia perché qual è il problema? Che la popolazione italiana sta lentamente ma inesorabilmente scivolando, franando nella parte bassa delle competenze. Stiamo diventando un paese di unskilled. Quindi anche i flussi migratori tendono ad essere concentrati sugli unskilled. Il rapporto Istat segnala che le famiglie di immigrati a minore qualificazione sono quelle che hanno sofferto di più in questi anni di crisi. Non ci vuole Einstein per giungere a questa conclusione. Noi stiamo arrivando al pettine con i nodi di decenni, ben prima dell'ingresso dell'Italia nell'Eurozona, attenzione, ben prima, decenni di un sistema di welfare sbagliato, di una pubblica amministrazione devastata, di freni all'attività imprenditoriale, e questo ha determinato il progressivo inesorabile invecchiamento della popolazione. Il Giappone, la popolazione invecchia con una produzione, generazione di valore aggiunto che resta terrificante. Esatto, da noi in Germania invecchia con lo stesso concetto del Giappone. Noi stiamo lentamente erodendo e franando a valle verso la base del valore aggiunto, cioè stiamo diventando un paese di unskilled. Esatto. E guardate che queste cose non si risolvono cambiando moneta. Non si risolvono cambiando anche moneta. Qui la riflessione dovrebbe portare a scelte i cui effetti poi si vedono nel medio periodo, non sono bacchette magiche, non è la manovra finanziaria con cui si fanno miliardi in più di entrate o di uscite nell'arco dei 12 mesi. Qui stiamo parlando di caratteristiche di fondo, esatto, dell'evoluzione, di età, di capitale umano, eccetera, eccetera, di orientamento, di matching efficace tra domanda e offerta. Quindi stiamo parlando di un paese che è da 25 anni avviato su questa strada. Oimè. Allora, tanto è vero quello che dici a proposito di come funziona la diseguaglianza. Uno dei punti di questo rapporto annuale è ovviamente quello delle diseguaglianze. E l'Italia ha una diseguaglianza di redditi, quelli che si chiamano i redditi di mercato. Cosa sono i redditi di mercato? Sono quelli appunto attribuiti per prima dell'intervento dello Stato. Ecco, se andiamo a vedere la diseguaglianza dei redditi di mercato nel nostro paese, è tra le più basse del continente, tra le più basse, nel senso che la media europea è 51,9 e noi siamo 48,6. Il problema è che noi abbiamo un welfare intervenuto il quale, cioè dopo la redistribuzione dello Stato, invece da una posizione molto buona delle diseguaglianze nella distribuzione dei redditi di mercato, andiamo a una posizione pessima nella forbice di distribuzione invece di quelli che si chiamano i redditi disponibili. Il reddito disponibile è quello dopo l'intervento dello Stato attraverso il prelievo e la redistribuzione fiscale. Ecco, sul reddito disponibile invece la nostra diseguaglianza diventa di 1,4 punti superiore alla media europea, che significa che il nostro welfare è proprio sbagliato. Però eccoci arrivare a un punto. Quest'anno l'Istat propone, dopo aver dato e confermato alcune cose generali, cioè ceto medio sempre meno, cresce la deprivazione materiale, l'aggiornamento delle stime della povertà assoluta, il 28,7% addirittura della popolazione italiana a rischio di povertà o esclusione. Detto tutto questo, propone una riarticolazione delle 25,7 milioni di famiglie italiane analizzate per situazioni professionali, numero di componenti e così via, i nove sottogruppi che diventano i ceti su cui si articola l'analisi dell'Istat. Io ve li ricordo perché uno di questi sono le famiglie a basso reddito con stranieri, e stiamo parlando di 4.700.000 italiani. Famiglie a basso reddito di soli italiani, e stiamo parlando di 8.200.000 italiani. Poi anziane sole e giovani disoccupati. Io già stento a capire cosa voglio dire. Comunque 5.400.000 giovani blue collar, e stiamo parlando di 6.100.000. Poi famiglie tradizionali della provincia, 3.600.000, famiglie degli operai in pensione, 10.500.000, famiglie di impiegati, 12.200.000, pensioni d'argento, 5.200.000, classe dirigente, 4.500.000. Queste sono le nuove stratificazioni, nuove, nel cui ambito, dicono loro stessi, le divergenze, la forbice di distribuzione dei redditi può essere più ampia che tra l'una e l'altra. A che cosa servono? Poi io alcune proprio non le capisco. Lì mi sono fermato e ho detto parliamone per capire meglio. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Allora, in questa fotografia di un paese seduto sui talloni, oimè, che, di cui Draghi, abbiamo ricordato nella prima parte della trasmissione, ci dice: guardate, l'Europa ormai riparte assolutamente, voi siete fermi, non ve la potete prendere con altri, i problemi sono strutturali, 25 anni di bassa produttività, demografia compromessa, bassa intensità del capitale umano, fortissimi problemi di iniquità intergenerazionale dovuti alla previdenza e non solo, alla struttura del mercato del lavoro, ai tipi di percorso e skills formate dalla scuola delle università pubbliche. Detto tutto questo, l'Istat poi ci propone questa nuova stratigrafia in questi nuovi 9 ceti che vi ho individuato, e alla cui dizione della definizione mi è venuto un problema anche solo a capire perché si utilizzi questa roba. Allora, la domanda che mi sono fatto è: ma non è che l'Istituto Centrale di Statistica sta diventando un istituto centrale di sociologia? Non ci sarebbe niente di male, però per capirci a cosa mi servono a me come giornalista queste 9 identificazioni, se l'Istat stesso mi dice che al loro interno la forbice di distribuzione dei redditi è più ampia che magari tra uno e l'altro di questi 9 gruppi. E allora mi sono detto, facciamocelo spiegare da una persona che all'Istat ha lavorato esattamente alla stratigrafia sociale, come si legge nella letteratura, perché se andate su questo troverete molte conferme di quello che vi sto dicendo. E quindi abbiamo chiamato il professor Antonio Schizzerotto. Grazie di essere con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, le posso chiedere di darci una mano a capire quello che da giornalista io non capisco su questi nuovi 9 gruppi gruppi che vengono individuati con un criterio che a me non pare né perspicuo né utile, questi nuovi ceti individuati dall'Istat. Perché a me non è chiaro? Probabilmente dipende da me, che non ho abbastanza studiato per capire che io non riesco a capire che senso possa avere una sottorappresentazione di anziane sole e giovani disoccupati, e poi mi trovo i giovani blue collar che hanno un'età media che è quasi più vicina ai 50 che ai 40. Allora, sono giovani e poi non sono troppo giovani. Perché evidentemente ci sfugge qualche cosa, professor Schizzerotto? Beh, diciamo che l'imbarazzo interpretativo che prova lei lo condivido anch'io ampiamente. Diciamo che, almeno a mio modo di vedere, questi gruppi sociali sono assai poco perspicui sotto il profilo empirico e difficili da comprendere sotto il profilo analitico e sostantivo. Diciamo che tradizionalmente anche i sociologi hanno fatto riferimento nei loro studi sulla disuguaglianza principalmente alla dimensione, alla struttura occupazionale. Poi c'è chi la vede in termini di classe, chi la vede in termini di categorie occupazionali, eccetera, ma l'idea era che il profilo di un paese, anche sotto l'aspetto dei problemi che sollevavate voi prima, si capisce meglio se si presta attenzione alla struttura occupazionale. Diciamo è che importante. A seconda della scuola storico-sociologica a cui si apparteneva, erano i ceti che producevano la diseguaglianza o erano i ceti i prodotti della diseguaglianza? Sono proprio due... Diciamo che in generale si assumeva l'ipotesi che la divisione sociale e tecnica del lavoro e dunque la struttura occupazionale fosse quella che generava disuguaglianza. Ci sono occupazioni con skills molto elevate e dunque sono remunerate in modo maggiore di quelle a basso livello di qualificazione, cambia la sicurezza del posto di lavoro, cambiano le gratificazioni psicologiche, cambia il ruolo organizzativo, eccetera. Insomma, c'era un senso nel fare riferimento alla struttura occupazionale per capire come si struttura la disuguaglianza. E l'Istat improvvisamente ha deciso che l'idea di fare riferimento alla struttura occupazionale di un paese, comunque nel caso specifico dell'Italia, comunque concettualizzata, non è più bene. E ha fatto quell'esercizio che lei citava prima con effettive difficoltà di comprensione, perché le ha già dette esattamente lei, insomma i problemi sono quelli lì. Come faccia a esserci un gruppo di giovani blue collar la cui età media è di 45 anni, che senso abbia a costruire dei raggruppamenti al loro interno più eterogenei di quanto non siano i 9 gruppi individuati tra loro? È in effetti difficile da capire, insomma, però, io credo. Se posso, mi fai dire? Caro Alberto, di certo. Sì, posso costruire su questo tema. Sai, una volta il lavoro determinava la natura sociale e questo ha avuto due concetti, quella di classe e quello di operaio, che sono stati il pilastro della discussione sociologica. Qui l'Istat prende atto, signori, che è l'arbitrio dello Stato, che spesso noi chiamiamo welfare in maniera impropria, che mischia le carte e interferisce anche sulla lettura sociale di questi fenomeni, perché un'altra variabile da capire proprio è come il fattore allocativo distorsivo delle scelte politiche e sociali di questo paese, della politica, sta confondendo le acque anche alla sociologia. Questo è un po', secondo me, ciò che emerge. Istat non riesce più a raccapezzarsi, e noi con lei, sull'intersezione fra mercato e Stato, che produce un risultato sociologicamente indeterminato. Questa, secondo me, è una novità interessante. È morta la classe operaia, ma non riusciamo a capire chi è nato, ecco, anche perché però, lo Stato cambia le carte. Aspetta, caro Alberto, vediamo di metterla così. Però non è che gli operai sono scomparsi. Sono scomparsi, esattamente. Questa è la mia stessa obiezione. Cioè, dall'Istat io mi aspetto una cosa diversa dal Censis, tanto per entrare in media stress. Dal Censis abbiamo una tradizione di grande capacità, per così narrativa. Narrativa, fantastica. fantasia nell'introduzione dei neologismi. D'accordo, va benissimo. Ma per quello che riguarda quello che io mi aspetto dall'ISTE, dico come giornalista, professionista dell'informazione, che deve attingere di lì poi strumenti responsabilmente da usare per interpretare le cose, trasferirle all'ascoltatore, al lettore e così via, mi aspetto dei criteri che mi appaiano chiari rispetto ai numeri che l'ISTE gestisce. Ecco, questo è il mio punto di fondo. Non voglio dire che nella interpretazione di questo poi non si fa sociologia, è ovvio, ma partendo dai criteri che siano anche internazionalmente poi condivisi, perché se io poi mi trovo ad avere delle cristallizzazioni che non hanno alcun raffronto con le cose internazionali, e l'Istat mi chiedo, mi sta dando una mano oppure no? C'è una deriva sociologica nuova. Quanto conta quello che diceva il professor Carlo Alberto Cannavale Maffè, secondo lei, Schizzerotto, nella ricerca un po' rabdomantica, quindi incerta, con qualche errore, ma fatta di nuovi tentativi, di criteri diversi da quelli del passato? Ma voglio dire, non c'è nulla in contrasto, cioè si possono fare analisi molto articolate, io stesso ne ho fatte in passato, per definire i livelli di benessere dei vari gruppi sociali presenti nel nostro paese, anche in funzione degli interventi del nostro sistema di welfare, delle distorsioni prodotte dalla regolazione del mercato del lavoro, eccetera, eccetera. Il problema che poi è che io devo capire come questi diversi gruppi, diciamo così, caratterizzati da livelli differenziali di benessere materiale e immateriale, socio-economico e culturale, eccetera, si distribuiscono dentro la struttura occupazionale. In questo modo io riesco a fare confronti con il resto d'Europa. Cioè l'Inghilterra, la Germania, la Francia, quando fanno queste analisi, fanno ancora riferimento alle cara e vecchia analisi della struttura occupazionale del paese. Ripeto, una la può pensare in termini di classe, tipo classe operaia, borghesia e tutte quelle faccende lì. Altre le possono pensare in termini di categorie occupazionali, sostanzialmente, quindi sono interessato a studiare, che ne so, gli avvocati, gli ingegneri, gli operai di fonditura, eccetera, eccetera, ma in ogni caso è questa struttura di divisione sociale e tecnica del lavoro che ho come riferimento. Allora, va benissimo capire i diversi livelli di benessere come si distribuiscono, ma nessuno mai dice che i livelli, non lo dice in Europa e nel mondo, che i livelli di benessere sono costitutivi della struttura economico, professionale e produttiva di un paese. E questo, secondo me, è il grande abbaglio dell'ISTE. Però una partecipazione al lavoro così bassa induce a pensare che non sia il lavoro il fattore primario per spiegare le composizioni sociali, ma sia purtroppo, lo dico, l'intervento allocativo distorsivo dello Stato, e lo dimostra la varianza fra, come dire, il differenziale, diciamo, di mercato. Sì, quello che richiamavo all'inizio, certo. Sì. Però non è che il tasso medio di, noi abbiamo un tasso di attività, come noto, bassissimo, nel caso, molto più basso della media europea, anche se adesso è accresciuto, ma il tasso complessivo di attività nostro è certamente uno tra i più bassi d'Europa, però tutto sommato la maggioranza della popolazione partecipa ancora del mondo del lavoro, insomma, cioè non siamo ancora un paese in cui la maggioranza è costituita da pensionati, percettori di indennità di disoccupazione. No, ma io sono molto d'accordo. Vabbè, poi soprattutto ci ho visto dei criteri. Perdonate, quando si arriva a identificare le famiglie tradizionali della provincia, ecco. Le famiglie tradizionali della provincia, a me cosa mi rappresenta questa cosa? Però quello, Oscar, mi permette di sentire, perché il fenomeno metropolitano è uno dei fenomeni più interessanti. Guarda caso, lì si concentra. Ma non è vero che la tradizione sta solo nella provincia in Italia? No, tutt'altro, no, però ecco, vedi che il fenomeno, per esempio, urbano e metropolitano è un altro fenomeno che si sovrappone e non c'entra col lavoro tradizionale. Ho capito. O con la classe. Allora, però, vedi, Carlo Alberto, dobbiamo mettere d'accordo su cosa fa la sociologia e cosa fa una cosa come l'Istria. Perché le famiglie tradizionali della provincia, i valori tradizionali dei capoluoghi di provincia del Veneto non sono diversi per niente da quelli che stanno le famiglie fuori i confini del capoluogo, tanto per dire. dirne una che sappiamo tutti quanti che è così e che è confermata nella loro evoluzione nel tempo, mica nel, non sono fermi, grazie al cielo. Allora, comunque, era solo una riflessione. Io ringrazio il professor Schizzerotto, che sapevo per via di quello che ha scritto nel tempo che ci era utile, perché il nostro, lo diciamo non per criticare l'ISTAT, ma come contributo utile di una comunità che riconosce ciò che l'ISTAT ci dà dal punto di vista dell'informazione. Quest'anno questo è l'unico punto su cui ci teniamo a dirlo, non abbiamo capito. Magari ci interesserebbe anche fare dei seminari riservati per capire. Se qualcuno della lista ci ascolta, disponibilissimi a confronto e a capire da dove nasce questo nuovo criterio ermeneutico, che però ai nostri occhi è pieno di dubbi e problemi. Malgrado, come avete sentito Carlo Alberto, ci sono anche delle ragioni che intravediamo per cui questa griglia di questi 9 gruppi. Però, insomma, va bene. Torniamo tra poco. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qua, tornati allo spirito iniziale con cui fu scelta all'inizio della stagione questa sigletta felliniana, che ci serve rispetto ai pregiudizi che molti di voi hanno sul ruolo, il peso, l'importanza, il successo, la capacità di riformarsi e rimettersi in piedi da quando erano i malati d'Europa, di una voce tedesca, e l'abbiamo scelta apposta come ricorrente nella nostra trasmissione per indurvi a qualche riflessioncina diversa da quella di quel riflesso condizionato pavloviano che vi spinge ad aderire alla facile, insistente, martellante campagna con cui politici, giornalisti nostrani vogliono dare ad altri le colpe di guai. Ne abbiamo parlato anche oggi nel rapporto Istat, nelle parole di Draghi, che invece hanno ragioni e colpe nostre, cari ascoltatori, nostre, non degli altri. Allora, Udo Gumpel, grazie di essere tornato con noi, Udo. Sì, buongiorno a voi, sotto la pioggia torrenziale di Roma. Ah. Però comunque mi sono messo al riparo. Senti, e naturalmente vedo che la città mezza allagata, no? Basta un quarto d'ora di forte pioggia, intere strade si trasformano in laghi. Questo purtroppo non, cioè, voglio dire, non è una novità, no? Perché non è colpa della Raggi, no, però non è cambiato nulla. Non cambia, no? Mai niente. Questo. Senti, io volevo approfittare del fatto che sei disponibile questo sabato per porti tre questioni. La prima, per così dire, entrando in medias res in una questione di cui ho visto ti sei occupato anche tu in questi giorni commentando alacremente, per capire, ma in Germania sulla vaccinazione come le famiglie si comportano sui loro figli e quali sono i criteri poi per farli iscrivere alle scuole materne, nido, elementari e anche più avanti, c'è lo stesso problema che si è creato in Italia oppure no? E poi dopo ti chiedo invece due considerazioni su quello che sta succedendo nel rapporto tra Macron e la Merkel, e anche una considerazione su questa che a me sembra una divergenza che si allarga sempre più nel rapporto con Erdogan e la Turchia, ancora una volta tra la Germania e Trump e gli Stati Uniti. Ma cominciamo dalle vaccinazioni, perché ho visto che il tema, come tutti quelli scientifici, ti ha colpito e hai fatto molti interventi questi giorni sui social. Sì, sono un vecchio tra virgolette scienziato e perciò naturalmente mi colpisce molto questo. Allora, dico subito, la vaccinazione in Germania non è obbligatoria, tranne per alcune professioni sanitarie o per persone che appunto sono più a contatto con il rischio. Però dall'altra parte c'è una grande coscienza della popolazione di doversi vaccinare, e nel caso delle vaccinazioni che sono qua, quelle contro le esantematiche, che sono il famoso morbillo, difterite, tetano, e lì raggiungiamo in media, infatti mi sono informato, di solito il 98% di copertura della popolazione, che significa che le poche persone che non si vaccinano, alcuni per ragioni sanitarie, che sono per esempio trapiantati, persone con difetti del loro sistema immunitario che non possono essere vaccinati, certo, che però hanno bisogno della vaccinazione degli altri, perché se, esatto, non circola il virus è chiaro che anche loro, che per ragioni sanitarie di salute loro, non possono essere vaccinate, ma non inventate perché i genitori sono vittime di complottismi, big pharma, cavolate varie, ma proprio per vere ragioni mediche, allora anche loro sono protette se tutta la popolazione ha quella, diciamo, copertura. Quindi del se capisco bene, non c'è stato bisogno nel tempo di interventi o di renderli obbligatori, perché la propensione media è così elevata che si sta a ben al di sopra di quei limiti, se si scende sotto i quali si diventa esposti a ritorno di malattie debellate, come capita da noi. Noi siamo per alcune patologie sotto l'85% addirittura di copertura, ecco perché siamo tornati ad avere migliaia di casi morbilli. Il numero dei malati, per esempio, di morbillo, come spiega anche il dottor Borione, che sempre cito, e in alcune aree estremamente alte. Io ho fatto dei servizi sulle epidemie di morbillo, ma ragazzi, ma questa è una roba da terzo, quarto mondo, che esistono ancora cose del genere, no? E invece se nella popolazione tu hai una vaccinazione a livello del 95%, può capitare il singolo caso, ma non ci sarà mai l'epidemia, però anche questa è sempre coperto. È una bella altri, differenza, no? Che ci dà l'idea. Un paese che non ha bisogno di tornare all'intervento obbligatorio dello Stato per la missione alla scuola, ma non ne ha bisogno perché capisce e si ispira a una condivisione dei valori. I valori, prima ancora della conoscenza, a cui si ispira il sistema scientifico e medico. In Italia, invece, no. E abbiamo una percentuale. Io sono molto colpito dalle lettere ricevute in questa settimana, e devo dire la verità, ve l'ho detto all'inizio della trasmissione, in cui torna a dominare un atteggiamento in percentuali preoccupantemente premoderno, ma non è una questione anche di essere antiscientifico, premoderno. Ma sai, Oscar, qual è il problema? È la anti-vax, è un veicolo di un altro virus, è quello della diffidenza verso lo Stato e la vita sociale. Ed capito, è anche però qualche ragione, non voglio bacchettare loro, perché vediamo come lo Stato si... Qui siamo, diciamo, in una camera caritatis aperta, che sappiamo benissimo come si comporta molte volte l'amministrazione pubblica, lo Stato. Vediamo medici che sono, per esempio, gli inventori della cura contro il dolore, cosa necessaria, utilissima, e uno degli estensori di questa legge contro il dolore, ovvero la più libero accesso agli antidolorifici, è uno che poi comincia a trafficare con alcune aziende, peraltro piccolissime, che così volevano entrare nel mercato, non i big pharma, ma little pharma, per dirla chiaramente. E allora è chiaro che questo porta nuovamente ad altra legna al fuoco della diffidenza, del complottismo. Io capisco la diffidenza, no? Ma tra chi mi scrive che io sono un assassino perché faccio parte di un complotto per cui le stesse dosi degli esivalente, che sono dosi da cavallo che uccidono i nostri bimbi, sono fatte esclusivamente nell'interesse delle quantità da vendere dei produttori, uno dice: ragazzi, ma voi uscite, siete prigionieri di un incantamento, non so chi sia. Ma appunto, la maga, questo è il complottismo, la follia, pazzesco, che ha preso, la vera malattia è questa follia dell'antivax. Senti, perché non è neanche la maggior parte dei vaccini, non è neanche più prodotto da Big Pharma, perché non ci si guadagna niente. Esattamente, questo è il problema, esattamente. No? Questo, forse hai fatto benissimo a dirlo anche questo. Ecco, questo è un altro suggerimento che mi dai in settimana, su cui tornare per fare un approfondimento sulla Radio 24. Dacci una dritta. Ma allora, questo rapporto con Macron e Merkel sarà davvero così tutto strepitosamente rose e fiori? Perché a me Macron sembra un pochino più di sinistra di quanto non sembri, visto quello che ha fatto nella vita e quello che pensa nella vita. Però non lo so, tu che dici? Ma il Macron è una minaccia anche per altri paesi, perché lui è l'esempio che i vecchi partiti destra-sinistra, queste divisioni contano sempre meno, ma contano veramente i programmi. Allora Macron ha dato una bella stura alla vecchia classe dirigente francese. Naturalmente chiede alla Germania le cose di buon senso, e allora è molto importante questo Macron per la Germania, perché lui non è il nemico, tra virgolette, della Germania, perciò lui trova orecchie molto aperte, evidentemente, soprattutto dopo il 24 settembre, quando in Germania le elezioni saranno fatte, e quando anche la Merkel e Schäuble, che in realtà tendono molto più dalle sue labbra, possono anche concedere qualche cosa, tipo gli eurobond. Gli eurobond sono una cosa importantissima per la crescita futura dell'Europa, ma non sono il mezzo per rendere comuni i vecchi debiti. Questo è il sogno dei vecchi indebitatori, dai Craxi fino a Berlusconi, fino ai Grillini, Tremonti, eccetera, eccetera. Tutti sognano di mettere i vecchi debiti in una big bank, in una bad bank europea garantita dalla Germania, no? Questo è il sogno. Così possono continuare a fare debiti per aumentarsi gli stipendi, per fare progetti. Però tu dici, no? Dopo le elezioni tedesche con Macron c'è la possibilità di emissioni di debito comune progetti specifici, non... Esatto, cioè, questo sarebbe il buon per tempo. Pagare una guardia europea, per esempio, di confine, la sicurezza europea, eccetera, eccetera. No, no, ma è per far capire chi ascolta. Io sono contrario a fare eurobond per pagare stipendi dipendenti pubblici, no? Mettiamoci in chiaro, no? Anche tu, Oscar, devi guadagnarti la tua pagnotta presso il tuo datore di lavoro. No, sto scherzando, perché ce l'hai ancora, spero che ti paghino ancora per poco. Ma la cosa giusta è investire in progetti di infrastruttura, tecnologia e in quello che dovrebbe rendere, anzi ha finora reso l'Europa particolare, capitale umano, capitale anche fisico, la gestione della cultura, anche la gestione della cultura, quelle sono le cose che rendono particolare, allora, l'Europa. Vediamo, vediamo se cultura, dopo la trionfale rielezione della Merkel, azzardo questa ipotesi, se no sto scherzando, però insomma si capisce che per Schulz è un po' più ma difficile, sarà così, sarà così, no? E appunto i tedeschi ragionano e appunto, e vediamo se dopo settembre ci sarà questo, e vediamo se l'Italia che parte deciderà di scegliere, perché nel frattempo noto con interesse che Renzi ha un po' smesso i suoi mantra anti-europei. Bisogna capire che posizione prende l'Italia e quando va a votare l'Italia e con che legge va a votare l'Italia. Bah. Grazie Udo Gumpa, noi torniamo tra poco. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Ed eccoci qua, ci ha raggiunto il nostro imprenditore, l'unico che fa soldi veri, mentre noi siamo qui che chiacchieriamo. Renato, come stai Renato? Buongiorno, bene. Allora, mi dipingi come zio Paperone che faccio i bagni tutte le volte. Dai, vi state accingendo a festeggiare i 50 anni dell'azienda, ragazzi, queste sono cose serie, non diciamo sciocchezze. Quindi altro che bagni nell'oro, crescita. Sono cose belle, dai. Sono cose molto belle. Allora, questa settimana in che cosa lo Stato ti ha stupito favorevolmente, dandoti la mano senza di cui non potresti mai fare impresa privata tu e i tuoi familiari, perché noi lo sappiamo che dobbiamo tutto, voi non lo volete ammettere, cattivone imprenditore, ma senza lo Stato che è munifico, è generoso, è solidale, senza di lui voi non andreste da nessuna parte. No, io ho scoperto qualcosa di cui parlavate poco tempo fa, pochi minuti fa, che è quella parte dell'Istat. E così, leggendo tutte le nuove categorie, mi sa che mi ritrovo nella classe dirigente, così ad occhio. E ad occhio, però direi più che classe dirigente, noi siamo la classe pagante, ogni tanto ho l'impressione, più che dirigente, perché il nostro Stato fa di tutto per farti passare la voglia di fare l'imprenditore. Poi, vabbè, diciamo che le cose private è meglio non esibirle in pubblico. Sì, esatto. Ma invece la cosa carina di questa settimana è che zitti zitti stiamo andando verso la manovra correttiva. Già. E la manovra correttiva vuol dire, diciamolo, trovare soldi, perché poi la riduzione delle spese se ne parla. E aggiungiamolo, perché il signor Renzi ha voluto fare il gradasso fingendo di avere ottenuto a tavolino una cosa che non ha ottenuto e lasciando al successore la necessità di dover coprire il deficit di quest'anno. Poi non dite che sono io ossessionato, è la realtà. No, perché hanno appena scritto che noi siamo renziani berlusconiani, vabbè. È la stessa cosa che siamo contro i 5 Stelle, vabbè. Per cui vabbè, d'accordo, perché qui servono vaccini. Esatto. Ma allora sapete che io sono ho il lasciapassare, avendo persone in famiglia dei 5 Stelle, quindi esatto, vabbè, ma non è speciale. Io spero di sopravvivere anche a questi processi, ma non è questo il punto. Allora, e di decreto in particolare, che cos'è che allora, la cosa divertente è leggere oggi il Sole 24 Ore, il giornale di casa. Se volete farvi quattro risate, vi leggete le regole sulla liquidazione IVA. Sì, è vero. Allora, uno legge la regola sulla liquidazione IVA ed è, sai, quelle cose tipo, non so, i filosofi, ma quelli difficili, che arrivi alla fine della pagina e dici non ho capito niente, ritorni all'inizio della pagina, rileggi tutta la pagina e dici non ho capito niente, ritorni all'inizio della pagina e dici vabbè, andrò da uno specialista, in questo caso non so, il commercialista, se ce la fa lui. Eh sì, oppure... ma se ce la fa lui non è detto. Non è detto. Fa lui, perché ultimamente ogni tanto quando gli telefono il nostro fiscalista mi dice guarda, non ci ho capito niente neanch'io, devo studiare, devo sentire qualche collega, devo cercare di capire e poi faremo in qualche modo e vediamo, speriamo di non fare le cose sbagliate. Quindi, ma infatti è proprio per evitare gli errori che questa nuova modalità consente di confrontare i dati comunicati quelli tuoi, con quelli dei tuoi clienti, con quelli dei tuoi fornitori, cioè un ambaradan. L'unico passaggio forse interessante, esatto. Perché se non altro puoi controllare. Io ho qualche dubbio conoscendo come fanno. No, software, ma figuriamoci. No, però... io ti dirò che sono esilarato dal fatto che, come al solito, prima ti bastonano nel decreto, poi pretendono i titoli dei giornali al fatto che modificano un po' duramente quella che resta una bastonata. Perché, per esempio, gli split payment, l'SSO di split payment è una bastonata clamorosa, perché saranno tra i 12 e i 15 miliardi di liquidità drenata alle imprese fornitrici l'anno prossimo, spacciata per evasione fiscale. Invece è un furto, una rapina, una devastazione. Costante rapina fatta dallo Stato in termini di liquidità adesso, e adesso però ti dicono però fatemi il titolo sul fatto che vi do 30 giorni di compenso di creditiva in meno. Dico, ma in meno rispetto a quanti mesi in cui me li dai? Cioè, capite? Ecco, questa mentalità con cui lo Stato prima ti picchia e poi pretende che tu gli dica bravo perché invece di spaccarmi la testa mi hai solo rotto il naso e gli occhiali, è una roba da picchiatore da angiporto. Questo lo dico proprio... Ecco, io la penso così, cari colleghi del Sole 24 Ore. Io penso che ogni tanto bisognerebbe dirla così. Una cosa carina è anche, Oscar, fatto del 70%... Adesso sta cominciando a dire, vabbè, trattiamo, allora... ti trattengo il 70%, ti lascio il 30%, tutte cose che poi ti fanno, cioè, che si vede chiarissimamente, che sono studiate da persone che non hanno mai vissuto in un'azienda. Perché poi, allora tu, cioè questi non vivono ogni giorno quelli che sono i problemi dell'azienda. Lo so, e ma dai. No, questo è un argomento vita, berlusconiano. No? Loro sono lo Stato, è ovvio, loro sono precostituiti. Cosa vuoi dire? Sono superiori alla tua visione occidentale degli spiriti animali. 70 e 30 vuol dire aggiornare software, fare del... Cioè, Renato, adesso però noi abbiamo nella chiusura un passaggio obbligato, perché gli ascoltatori, caro Mario... ci chiedono di onorare un impegno, perché gli avevamo promesso due settimane fa che tu ogni settimana finivi la trasmissione con una nota di ottimismo. Allora, Mario, è così? Io ieri ti ho scritto che volevo recitare la terza e ultima strofa della Quiete dopo la tempesta di Leopardi, che per quanto ottimismo mi riguarda è un manifesto di vita. No, il manifesto di vita, la terza strofa, che è un capolavoro, sì. Leggetevela. Ecco. Allora, volendo volare molto più basso, devo dire che abbiamo visto i dati Istat. Abbiamo visto i dati del commercio estero italiano, sì, questa settimana. L'export cresce molto bene. L'import aumenta a sua volta perché è virtuoso rispetto alla trasformazione. Per la serie, l'export italiano con l'euro sarebbe morto e non sta andando così. Questo è un dato Mario positivo. Mario ottimista! Si può fare! Clamoroso! Clamoroso al Cimbali d'ora in poi! Vi presenteremo tutte le settimane. Mario Seminerio, ottimista! Grazie Renato Cifarelli, grazie a Calberto Carnavale Maffè, grazie a voi tutti. Appuntamento con me, Alessandro Milan, lunedì alle 8:20. Attenti a noi due!